quadrati, io cammino verso un chiaro scintillio. Sono nel giardino di Dio, sabbia nera alla sera, quando scopro che non è più mio. Scendo dal giardino di Dio, dali le profumano e mi innervico nell'erica restio. Sopra c'è l'archivio di Dio, volumi, carte, baci ritrovati senza che lo sappia io. Sono nel giardino di Dio, mi piace stare dentro il golfo di ogni inutile rinvio. Sono nel giardino di Dio, se voglio pianto ancora tutte e 30 le molecole dell'io. Quando forse molti grideranno, quando forse molti piangeranno, quando forse molti chiederanno cosa, quando, come ho fatto ad annientare ogni affanno. Piccolo segreto, piccolo segreto, piccolo segreto, piccolo segreto. Sono nel giardino di Dio, coi sandali quadrati io cammino verso un chiaro scintillio. Sono nel giardino di Dio, sabbia nera alla sera, quando scopro che non è più mio. Scendo dal giardino di Dio, dali le profumano e mi innervico nell'erica restio. Sopra c'è l'archivio di Dio, volumi, carte, baci ritrovati senza che lo sappia io. Quando forse molti grideranno, quando forse molti piangeranno, quando forse molti chiederanno cosa, quando, come ho fatto ad annientare ogni affanno. Piccolo segreto, piccolo segreto, piccolo segreto, piccolo segreto. Segreto.